Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ecco, noi Paolo Pisanelli, direttore della Festa di Cinema del Reale a Specchia, in provincia di Lecce, dal 18 al 21 luglio. Paolo, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. La Festa di Cinema Reale quest'anno in realtà è 16-26 luglio, perché da un castello siamo andati in tre castelli, cioè Corigliano d'Otranto, Specchia e Andrano. Ok, 16-26 luglio, 10 giorni pieni, ci presenti un po' tutta questa edizione? Sì, noi si comincia al 16 con questa grande, grandissima inaugurazione e festa per William Klein. Noi facciamo 15 anni e abbiamo pensato che è importante festeggiare, però festeggiamo anche il fatto che arrivi un grandissimo fotografo e filmmaker come William, di cui abbiamo tradotto i film più importanti e sottotitolato, quindi sarà un piacere potervi presentare al pubblico italiano. Però lui ci ha fatto un regalo a noi, ci ha dato la possibilità di fare una mostra installazione di una selezione dei suoi contacts painted, cioè la sua scelta di immagini dai provini a contatto con degli interventi di pittura molto forti, perché William Klein è stato prima pittore, poi fotografo, filmmaker, scrittore, cioè un artista total, come si dice, quindi un artista poliedrico. Abbiamo il piacere di averlo qui e abbiamo il piacere poi dal 18 al 21, quindi 16 a Corigliano, c'è la festa che va avanti col DJ set, Gofer, c'è un'altra esposizione di Pierpaolo Gaballo sulle facce del castello, quindi una notte lunghissima e poi facce, guerre, mutamenti, queste sono le tre parole che ci guidano, no? Questo fil rouge di temi su cui lavoriamo ci porta a Specchia. Facce, guerre e mutamenti, e facce sono le storie, sono le facce delle persone che raccontiamo, che si raccontano, che mettiamo al centro un po' degli sguardi, chiaramente c'è un discorso anche alle facce sorridenti, per esempio in una mostra di fotografie che io ho fatto nel 91 a Brindisi, di quegli albanesi che arrivavano sorridenti ed era uno sbarco felice, poi ci stanno le facce meno felici di chi viene respinto così dalle nostre politiche molto molto nazionaliste, un po' razziste italiane, e noi Cinema Reale è sempre un po' è un cinema che combatte per i diritti delle persone, quindi è un cinema di strada come anche quello di Lech Kowalski, che tornerà da noi, siamo amici. Lui si è innamorato di Cinema Reale, noi ci siamo innamorati di lui, e Lech quest'anno è stato anche arrestato mentre filmava le proteste dei lavoratori in una fabbrica in Francia, e ci verrà un po' a presentare I Pay For Your Story, che è un bellissimo documentario che mette il dito su un problema del cinema documentario, e lui compra le storie, chiede alle persone di raccontare la storia a pagamento, e poi ci verrà a fare una masterclass, poi ci presenterà prossimamente dei lavori in corso, quindi questi sono i nostri due ospiti internazionali di cui siamo molto felici di poter presentare le opere. Poi abbiamo tanti film, come al solito, anche film nazionali, The Remnants, Pagine Nascoste, Pagani, film di Elisa Famiglia Inno, di Sabrina Varani, di tanti autori italiani, anche pugliesi, no, che si sono imposti all'estero, Corrado Punzi con Vento di Soave, Via della Felicità, Martina Di Leo. Quindi noi andiamo dal locale al nazionale, al discorso internazionale, sono tutti percorsi creativi eccezionali, ma non è solo cinema, perché è venuto a Cinema Reale sa che è una festa di incontri, di sguardi, di scambi creativi, quindi ci sono installazioni, mostre, laboratori, movies sulla pellicola, sulle ombre, Stefano Argentero sull'animazione, no? Quindi questo credo che sia una cosa che arricchisce molto chi viene, ed è bello trovarsi magari a discutere. Non facciamo tanti dibattiti dopo i film, ma ci incontriamo la mattina dopo, oppure la sera al bar, oppure la notte. Si può incontrare un grande autore, ma si può incontrare altri spettatori. C'è un flusso così di energie belle che si mettono in movimento, poi ci si va a tuffare a mare e si sta contenti. Senti, più o meno quante saranno le opere presentate? Paolo? Non lo so, abbiamo due schermi, abbiamo lo schermo pazzo a Specchia, poi abbiamo una collaborazione ad Andrano con il Barezzi Festival, dove lì presentiamo il primo festival panafricano, un film del 68 di William Klein, bellissimo. Sono tanti i film, sono più di 50, ma abbiamo anche poi la bellezza di avere Admir Shkurtay che ci il giovedì 19 a Specchia ci... Aspetta che sono andato in risonanza qua, ecco. Musica dal vivo, l'uomo con la macchina da presa di Zig Averto, e siamo molto felici di questo, perché uniamo sempre gli omaggi ai grandi autori, che lo sono i Admir Shkurtay, che è un compositore eccezionale. Tra l'altro lui musicherà Der Golem per la film di apertura della mostra di Venezia. Insomma, ci sembra che sia di un livello altissimo. Anche ad Andrano musicherà un lavoro che abbiamo fatto insieme su una fabbrica circolare in periferia, un luogo molto strano di archeologia industriale. E poi presentiamo Station to Station. Noi collaboriamo molto con i festival di musica anche, no? Quindi con il Barezzi Festival, che si fa a Parma normalmente, facciamo la serata ad Andrano, il Barezzi Summer, che si farà lì il 26 luglio, ma poi collaboriamo con il Cinzella Festival di Taranto, con Muse Salentina, che è un festival di musica classica, con autori straordinari, e si fa qui a fine luglio, ad agosto nel Salento, in luoghi molto belli, così, che abbiamo la fortuna di avere, anche un po' nascosti. Sì. Qua stiamo sotto un sole pazzesco, che se stai 5 minuti al sole ti cominci a fare un viaggio veramente. Quindi sono delle cicale che ti facevano sentire, è fortissimo, e quindi è un buon momento per arrivare, prendersi una settimana di pausa, andare al mare la sera e la mattina, insomma, partecipare ai laboratori e venire alla festa di cinema in reale. Bene. Paolo, in chiusura, tutti i riferimenti web? www.cinemadelreale.it, poi anche su Apulia Film Commission, perché questo è una festa di cinema che noi facciamo in collaborazione con Apulia Film Commission, quindi www.apuliafilmcommission.it, e poi siamo in delle reti di festa, su questo sarebbe bello. Tu Federico, se impazzisci vuoi venire, sei invitato, ospitato, mi raccomando. Bene. Proprio fai il colpo di testa, così ti ritroviamo qua. Ma noi ragioniamo il sabato a Specchia di a che cosa serve un festival, e abbiamo invitato naturalmente tutta la rete del network dei cinefestival della Puglia Film Commission, che insomma sono tanti festival, si va dal Bifest fino al Cinzella e al Festival di Otranto, quello di Acaia, del cinema francese. Sono tanti festival, è interessante trovare, diciamo, così uno scambio, no? Tra i direttori di festival, delle collaborazioni. Noi ospiteremo il Molise Festival, il FAC Normality Festival, anche dei festival un po' più irregolari, no? Come il Rainbow Festival che si fa a Lecce, che sulle tematiche LGBT. Quindi cerchiamo un po' di capire come collaborare tra festival, anche come creare rete, non fare guerre ma fare collaborazioni. Bene. Quindi facce, guerre, mutamenti, così poi si possono incontrare le facce dei direttori artistici e capire un po' questo anche mutamento, perché Purtroppo tanti festival negli ultimi anni sono saltati, sono esplosi perché non ci sono risorse, perché devi fare dei bandi che ti portano al manicomio, che per rendicontare poi non ce la fai, quindi bisogna attrezzarsi in un modo molto Sì. particolare, cioè, è proprio. Però da noi l'industria culturale che non c'è, diciamo, l'artigianato culturale. È un'impresa, un impegno. Per Sì. questo abbiamo invitato anche le imprese creative della Regione Puglia a partecipare, perché in qualche modo c'è una rete di festival anche che si sta costituendo con le imprese creative. E quindi c'è una voglia di riuscire anche a organizzarsi meglio e a costruire reti e a coinvolgere le persone. E non pensare che i luoghi siano location, ecco, noi facciamo cinema, ma questa parola l'abbiamo un po' abolita perché facciamo cinema del reale e quindi ci interessa l'incontro con le persone, i luoghi reali e la valorizzazione, la promozione delle idee. Bene, allora ricordiamo la 15ª edizione della Festa di Cinema del Reale in tre diversi luoghi della provincia di Lecce: Corigliano d'Otranto 16 luglio, Specchia dal 18 al 21 e Andrano 26 luglio. Un saluto e un ringraziamento al direttore Paolo Pisanelli. Paolo, un abbraccio, un in bocca al lupo e chissà, magari ci si vede Eh sì, ci si vede, tu porta Radio Onda Rossa, qua abbiamo lì. Radio Web e altre radio, di Specchia, sarebbe bello anche questo incontro tra radio. Bene. Grazie a tutti, buona giornata. Ciao Paolo. Grazie Federico, ciao. Con noi Stefania Bianchi, direttrice della 16ª edizione di Guerre e Pace Film Festa a Forte San Gallo a Nettuno dal 23 al 29 luglio. Stefania, ben trovata. Grazie, buongiorno a tutti. Raccontiamo cos'è Guerre e Pace. La Guerra e Pace Film Fest è 16ª edizione, una rassegna cinematografica, ma non solo, perché all'interno vengono presentati anche libri, documentari in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà, che è dedicata proprio ai temi della guerra e della pace. E quest'anno il tema, il filo conduttore che ci accompagnerà in questa settimana è proprio Dentro la guerra, con protagonisti film, documentari e libri. Ok, i film e documentari quanti saranno? Sono 6 film, partiamo con un omaggio a Ermanno Olmi con la presentazione del Mestiere delle Armi, ci saranno in Siria, Ted, Lebanon, Land of Mine, The Water di Diner, insomma una serie di film che ci portano proprio dentro la guerra, che ci raccontano storie di guerra, di uomini, di soldati che hanno appunto vissuto gli effetti devastanti del conflitto. Ok. Stefania, a questo punto citiamo anche i libri e gli incontri. Sì, allora tra i libri che presentiamo, proprio per rimanere in tema, perché uno sguardo sarà anche dato a quello che sta avvenendo in Siria, una guerra che dura, civile che dura da più di 6 anni, presenteremo Alle porte di Damasco, Viaggio nella Siria che resiste, di Sebastiano Caputo, e l'abbiamo proprio voluto legare ad In Siria, Ted, il film proprio che ci racconta la guerra in Siria vista da questa famiglia rimasta bloccata all'interno di un appartamento. Come saranno organizzate le giornate? Quali saranno gli orari? E allora, come detto, all'ingresso gratuito al Forte San Gallo di Nettuno, tutte le sere alle 21 presenteremo il film e il documentario e ci sarà anche la presentazione di libri. Quindi i nostri spettatori potranno trascorrere una bellissima serata in una fortezza bellissima che è il Forte San Gallo, che è una fortezza del 500 proprio sul mare, e naturalmente assistere alla presentazione dei libri e alle proiezioni dei documentari e dei film. E partiremo, questo ci tengo a dirlo, con la celebrazione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale,

avremo il cast e il regista che accompagneranno il film in carte. E dunque, praticamente dal 19, fra pochissimo, apriamo alla Biblioteca Goffredo Mameli con L'Intrusa, un film, più adatto al dibattito del momento non poteva esserci, un film dedicato al tema proprio dell'incontro con l'altro, dell'accoglienza, e quindi questo è il film d'inizio, e la Pericinema sarà a cura di Mario Sesti, il primo sì. incontro. Dopodiché il 25 luglio ancora alla Mameli, il 26 luglio invece saremo a Valle Aurelia con Summer, un film bellissimo spagnolo, e a introdurre la Pericinema sarà curato da Federico Pontigia. Il 30 luglio appunto a Rebibbia Femminile, il 27 agosto a Casal del Marmo, e giovedì 6 settembre invece torniamo a Valle Aurelia con una serie di cortometraggi, e la Pericinema sarà a cura di Alessandro Zoppo, sono il meglio del MED delle ultime due edizioni. Giovedì 13 ancora di nuovo torniamo alla Mameli con La Bella e le Bestie di Kauter Benani, il film che ha aperto l'ultima edizione del MED Film. E dunque, attenzione, torno indietro. Mercoledì 25 luglio a Ciambra, alla Goffredo Mameli. Ok, benissimo. A questo punto ci dai tutti i riferimenti internet per seguire la programmazione? Sì, la programmazione è sul nostro sito medfilmfestival.org, c'è cioè il programma scaricabile con le sinossi e tutte le informazioni possibili e immaginabili, così come sul sito dell'Estate Romana. Ok. L'estate in biblioteca, il cinema legge il mondo, 19 luglio fino al 27 settembre. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Ginella Vocca. Ginella, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille. Ciao. A presto. Siamo con Antonio Flamini, direttore della quarta edizione del Roma Africa Film Festival a Roma, la Casa del Cinema, dal 18 al 22 luglio. Antonio, ben trovato. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Ci racconti un po'? Sì, beh, guarda, siamo arrivati alla quarta edizione del Roma Africa Film Festival. Come forse i nostri ascoltatori sanno, ma tu sicuramente sai, è la rassegna che promuove il cinema e la cultura africana a Roma, e oggi più che mai ci sembra una manifestazione importante, ricca di spunti non solamente cinematografici. Sì, sì. Visto che siamo alla quarta edizione, come era nato il progetto, come si sta sviluppando? Ma guarda, il progetto è nato con quattro amici, diciamo, che amanti dell'Africa e del cinema, che si sono messi insieme per così iniziare un'avventura che poi ha avuto un grande successo, e quindi un seguito, un grande successo di pubblico, di critica, con apprezzamenti anche internazionali, tant'è vero che ogni anno aumentiamo le partnership con festival di cinema africano a livello internazionale, e si sviluppa nel senso che ogni anno presentiamo un programma sempre più ricco, sempre più vario, con degli elementi diversi. Quest'anno, per esempio, apriamo una giornata molto importante per l'Africa, ma non solo per l'Africa, credo per tutto il mondo, perché è il 18 luglio, il giorno della nostra apertura, è l'anniversario, il centenario della nascita di Nelson Mandela, e Londra ha proclamato il Mandela Day, e quindi acquista un sapore particolare, e noi per questo abbiamo deciso di inaugurare proprio in quel giorno con un film sudafricano dedicato appunto a Nelson Mandela in collaborazione con l'ambasciata del Sudafrica. Quante le opere presentate in questa edizione, e poi come saranno strutturate le giornate? Allora, guarda, intanto quest'anno diciamo che c'è una giornata in più, che è appunto il 18, proprio per il motivo che ho detto, anche se quella sarà un evento ad inviti. Poi noi le proiezioni di quella giornata le ripetiamo per il pubblico alla Casa del Cinema, dove tradizionalmente, la Casa del Cinema di Roma, Villa Borghese, dove tradizionalmente si svolge il festival. Noi lì presentiamo in generale documentari, lungometraggi, documentari e corti. ci sono due momenti particolari che sono rappresentati da una conferenza sulla cooperazione che ci sarà il 19 nel pomeriggio alla Casa del Cinema, e poi il solito spazio noi dedichiamo alle seconde generazioni, che per noi è molto importante, che sarà sabato 21 luglio tra le 15 e le 17, anche se le seconde generazioni avranno una presenza anche un po' trasversale durante tutto il festival. Noi presentiamo circa una decina di lungometraggi, altrettanti documentari e moltissimi corti, soprattutto arricchiti appunto da quelli delle seconde generazioni, con un coinvolgimento di numerosi paesi. Quest'anno diciamo le tre linee guida sono rappresentate ovviamente dal momento dedicato a Mandela e quindi a Sudafrica, quindi anche con altri film e documentari dedicati al Sudafrica. Un altro momento invece viene appunto dedicato ai paesi nordafricani, e questo sarà la giornata di sabato, che culminerà nella serata con la proiezione di un film in anteprima che uscirà poi nelle sale il 28 luglio, che si chiama La Belle e le Bestie, con la presenza dell'attrice protagonista del film, Mariam Al-Ferjani, che è un film che è stato presentato a Cannes, poi a Berlino, insomma un film che è molto molto interessante, un film tunisino. E l'ultimo giorno verrà dedicato, come altra ulteriore linea guida, al Burkina Faso, perché noi ricordiamo un regista importante del Burkina Faso, Idrissa Ouedraogo, che è scomparso recentemente, e presentiamo il film Samba Troé, con cui questo regista ha vinto l'Orso d'Argento al Festival di Berlino. Come vedi ci sono una serie di spunti interessanti, poi ci sono anche altri film, anche di altri paesi, c'è un documentario bellissimo di Siskongo che consiglio veramente di vedere a tutti, c'è il coinvolgimento di corti della Tunisia, dell'Algeria, ci sono due bellissimi corti algerini, corti o mediometraggi, perché uno dura circa 20 minuti. Il giorno in cui facciamo la conferenza della cooperazione presentiamo anche un film che è frutto di una coproduzione italo-sudafricana, girato completamente in Sudafrica e con suo italiano, del regista Antonio Falduto, e come protagonista c'è Giuliana Desio. Sia il regista che l'attrice protagonista saranno presenti, molti degli interpreti dei film, registi, attori, attrici saranno presenti alle proiezioni. Bene. Per tutti i riferimenti e maggiori dettagli ci dai riferimenti web? Certamente, dunque il nostro sito, che rimane sempre lo stesso, è www.romafricafilmfest.com, e lì si può trovare la guida, si può trovare il programma, insomma tutte le informazioni necessarie per poter seguire il festival, che ricordo è completamente ad ingresso libero ovviamente fino ad esaurimento posti. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento, la quarta edizione del Roma Africa Film Festival alla Casa del Cinema dal 18 al 22 luglio. Un ringraziamento e un saluto al direttore Antonio Flamini. Antonio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Viva il lupo e un saluto a tutti i radioascoltatori, e vi aspetto al Roma Africa Film Festival. Bene, ciao. Ciao. Con noi Adriano Aprà, direttore di Fuori Norma 2, Festival del Cinema Neo Sperimentale Italiano, alla Casa Internazionale delle Donne a Roma, 23-25 luglio. Adriano, ben trovato. Ben trovato anche a te e a voi. Ci racconti? Allora, abbiamo ripreso a maggio Fuori Norma, il programma che l'altro anno abbiamo presentato da ottobre a dicembre in 20 sale indipendenti romane con 20 film che sono passati ognuno in media 6 volte. Sì. Stavolta abbiamo un po' corretto il tiro, perché quella esperienza, pur andando bene, è stata molto faticosa per un gruppo piccolo come il nostro e anche relativamente senza risorse. Quindi lo abbiamo, se vuoi, ancora più sparpagliato in sale romane anche diverse da quelle che c'erano state a ottobre-dicembre, e pensiamo di fare due passaggi per ognuno dei film che nel frattempo sono diventati, esclusi quelli 20 già presentati, sono diventati ben 60. Quindi 60 lungometraggi e mediometraggi italiani o fatti da italiani degli ultimi 13 anni, dal 2006 a oggi. Quindi abbiamo ancora, oltre a quelle della Casa delle Donne, delle proiezioni all'Isola del Cinema alla fine di agosto, poi riprendiamo a settembre in altre sale romane già individuate e fuori Roma, non solo, ma poi il prossimo anno già si profilano delle proiezioni all'estero. Insomma, cerchiamo di far conoscere questo cinema per noi fondamentale, cioè che segna la rinascita vera, autentica del cinema italiano, a chi purtroppo poco lo conosce, anche i media poco ne parlano, sono sempre i soliti quattro nomi che vengono fatti per il cinema italiano e ci si dimentica di questi altri 80 autori italiani che producono delle cose, a mio avviso, anche superiori a quelle di solito ricordate perché hanno vinto festival o altre cose del genere. Sì. Insomma, io credo a una vera nuova epoca per il cinema italiano, sì, di sì, grande, enorme creatività, che ha il torto, ahimè, di essere, anche per colpa dei distributori, anche per colpa degli esercenti e anche della critica, bisogna dire, sono poco conosciuti, troppo poco conosciuti. Noi cerchiamo di farli conoscere meglio. Come avete rintracciato queste decine di opere che proporrete? Beh, le abbiamo, guarda, non nelle sale commerciali, ma nei festival, sul web, per esempio. Sì. Molti di questi film li ho visti sul televisore con un link. E anche in sale indipendenti, tipo a Roma l'Apollo 11, per nominarne solo una. Perché... Certo. Anche questo è il segno di tempi che stanno cambiando. La sala commerciale non è più il luogo privilegiato del cinema, soprattutto del miglior cinema. Ormai questi autori che riescono, grazie al digitale, a produrre i film con cifre che non sono mai astronomiche, anzi in genere sono povere, io dico di regale povertà, si danno da fare per inventarsi altri modi di distribuzione, perché questi altri modi di distribuzione esistono. Non è un caso che a Roma noi abbiamo individuato 20 e più sale indipendenti, cioè che non programmano film del normale circuito cinematografico. È un segno che c'è anche nel campo dell'esercizio un nuovo modo di intenderlo, e lo stesso vale in tutta Italia. Sì. Io ho mandato mail a decine e decine di sale che sono pronte a programmare questi film, perché c'è una sete di qualcosa di diverso dal cinema mainstream che colpisce. Sì. Una scelta di luogo importante alla Casa Internazionale delle Donne per questa 3 giorni, come sarà strutturata, Adriano? Guarda, non ho il programma sotto mano, però sono film di donne, film realizzati, ne abbiamo molti di film realizzati da autrici donne. Sì. E quindi sono quelli che programmiamo, sono film di donne. Adesso scusami, non ho sotto mano il calendario. Sì, però, insomma, con quali sono. Si chiama Gesù è morto per i peccati degli altri di Maria Arena. Sì. Un altro è My Sister is a Painter di Virginia Eleuteri Serpieri. Sono credo 5 film. Sì. Scusami. Non ti preoccupare, tanto comunque ci dai poi tutti i riferimenti internet per saperne di più. Quindi poi noi a settembre pubblicheremo un catalogo di tutti questi film ancora da proiettare a Roma. Un catalogo l'abbiamo già pubblicato l'altro anno. Forniremo per ciascuna sala che programma il film una scheda ben fatta con note dell'autore, biofilmografia, eccetera, tutto quello che è necessario ad accompagnare ogni film, e ogni volta che possiamo ci sarà l'autore presente o l'autrice presente, o in mancanza dell'autore un critico, a cominciare da me, per accompagnare questi film e poi discuterli col pubblico, perché l'esperienza che abbiamo avuto l'altro anno presentando o gli autori o i critici assieme al film ha dato dei risultati

Segre qui a presentare l'ordine delle cose. Ok, lanciamo l'appello allora. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Un'estate Indie dal 16 al 29 luglio all'Apollo 11 a Roma. Massimo, altre informazioni? Cioè, vabbè, chiaramente la pagina Facebook e il sito internet dell'Apollo. Sì, in questo momento noi abbiamo le pagine social sia su Instagram che soprattutto Facebook. Ecco, una cosa che volevo dire, questa rassegna è spalmata su 11 giorni, si ferma praticamente nel weekend prossimo, per fare spazio al film in prima visione per noi, e in questo caso sarà estate 1993, e quindi avremo, oltre ai film insomma di questa rassegna, continueremo a presentare film che comunque sono la normale programmazione. Esatto, adesso in questo momento noi abbiamo Katie, la città dei gatti, che evidentemente i mici fanno sempre successo. Una città come Roma, sì. Esatto. Il morto Stalin se ne fa un altro, sì. Dal genio di Armando Iannucci, appunto avremo Estate 1993 e forse un altro titolo a sorpresa sempre il prossimo weekend. Bene, Massimo, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Il lupo, ciao, a risentirci. Siamo con Aurora Palandrani dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per parlare dell'Ape Rossa a partire dal 14 luglio. Aurora, ben trovata. Grazie, ben trovata a voi. Non è la prima volta che ne parliamo, raccontiamo un po' cos'è questa Ape Rossa. Certo, l'Ape Rossa dell'archivio audiovisivo è appunto un'ape, una pezza che noi teniamo tutto l'anno, diciamo tutto l'inverno qua fuori. Ed è un modo un po' per uscire l'estate e portare l'archivio e portare le iniziative dell'archivio in piazza. È già il quinto anno che facciamo iniziative, il quarto con l'estate romana, quindi siamo molto contenti di ripartire. Quest'anno in particolare ci dedichiamo un po' a quello che è il quadrante su cui ci muoviamo, casa nostra, quindi le zone di Garbatella, Ostiense e Marconi. Sì. C'è una data d'inizio, 14 luglio, ma fino a quando? Fino a quando, dunque, partiamo 14 e 15 luglio e poi riprendiamo 18, 19, 20 e 21 luglio. Il 21 luglio finiamo, proprio qui nella sede della centrale Monte Martini, dove c'è la sede appunto dell'archivio di Vigilio. Sei date per ogni, sono due date per ogni location, e in particolare vi racconto com'è la giornata della Perossa. Beh, sì, no, sì. Iniziamo in genere al pomeriggio, perché appunto la Perossa è un'iniziativa un po' multiforme, non è soltanto il cinema in strada, come ci piace dire, ma è un po' un... sono tante iniziative insieme. Partiamo al pomeriggio con uno walkabout, che è una visita guidata partecipata del quartiere, curato dall'associazione Urban Experience. Proseguiamo quest'anno con un momento dedicato ai più piccoli. Facciamo in collaborazione della Biblioteca Centrale Ragazzi l'Ape Lettura, e quindi ci sarà una pezza attrezzata per le letture per i bambini. Poi continuiamo con la musica dal vivo la sera alle 8, ci sono 6 esibizioni insieme a Emiliano Torquati, che si occupa di musica elettronica, e con l'interpretazione, con la sonorizzazione di le nostre immagini di repertorio. Questa è una cosa interessante, l'incontro della musica con il nostro cinema. Quest'anno, tra l'altro, ci sarà un monte di 20 minuti sulle immagini di Valle Giulia, le nostre immagini di Valle Giulia. Okay. E per finire l'appuntamento centrale, che è quello con il cinema, ogni sera un film diverso che racconta un po' le storie, quindi andiamo da A Cartone, Il Contagio, L'Amico Immaginario, un omaggio anche a Vittor Cavallo con Giravolte, e per arrivare a L'Amore Tossico di Claudio Calieri. Per tutti i riferimenti del programma c'è un luogo web di riferimento? Il nostro sito web sicuramente, www.amod.it, i social con la pagina Facebook, con Instagram, sotto l'hashtag 2018. Allora, ci ricordi gli orari e le date? Certamente, iniziamo 14 luglio al Teatro India a partire dalle 17. e stessa cosa per il 15, 18, 19, 20 e 21 luglio in archivio a Via Ostiense 106 all'interno della centrale Monte Martini. Benissimo, allora ricordiamo l'Ape Rossa, iniziativa a cura dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico a partire dal 14 luglio per 6 date, giusto? Esatto. Un abbraccio, un ringraziamento ad Aurora Palandrani e un in bocca al lupo. Veniteci a trovare. A presto. Ciao Aurora. Con noi Rosalba Colla, direttrice della quarta edizione di Animafix, International Animated Film Festival a Bagheria, Palermo, dal 18 al 22 luglio. Rosalba, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Cos'è Animafix? Animafix è un festival di cinema d'animazione d'autore che si svolge appunto a Bagheria e Palermo. Nato 4 anni fa e quindi prossimi alla quarta edizione, che si svolge in una meravigliosa location che è quella di Villa Cattolica, sede del Museo Guttuso. Sì. E da quest'anno anche appunto a Palermo abbiamo appunto presentato la sezione fuori concorso già ad aprile ai cantieri culturali della Visa, al Cinema De Seta. E adesso presenteremo anche le nostre attività di formazione alle carte blanche, quindi incontri con gli autori, presso il Goethe Institute di Palermo. Animafix è un festival che ha l'obiettivo di promuovere e divulgare il cinema d'animazione che in Italia incontra insomma qualche difficoltà, c'è sicuramente una lacuna culturale che porta ad immaginare, a pensare insomma all'animazione come un prodotto di serie B rispetto al cinema dal vero, cosa che naturalmente non è così, basta andare fuori dall'Italia per capire insomma che è assolutamente invece una forma espressiva, una forma cinematografica pari appunto a quella che può essere il cinema live, il documentario, eccetera, ma che offre in realtà, secondo noi, offre invece la possibilità, di poter arrivare e più che altro di poter rappresentare un mondo immaginifico, un mondo ricco di surrealtà, di visioni surreali, oniriche, che diversamente invece magari non ci è dato attraverso il cinema dal vero. Rosalba, quante opere e quanti ospiti ci saranno in questa edizione? Allora, ci saranno diversi ospiti internazionali, tra cui ospiti speciali. Per la prima volta in Italia sono Hugh Welkman e Dorota Cobbiela, che sono i registi di Loving Vincent. Presenteremo una retrospettiva, quindi un omaggio insomma per cui proietteremo Loving Vincent e anche Peter and the Wolf. Dopo l'omaggio appunto ai due registi polacchi, sì, abbiamo un altro ospite dalla Germania che è Volker Schlecht, che l'anno scorso ha vinto il premio come migliore cortometraggio internazionale proprio qui ad Animafix. Poi ci saranno diversi ospiti tedeschi, tra cui Cosimo Miorielli, che è un italo-tedesco, e Fabrizio Nocci, che presenteranno Light Painting. Okay. E tanti altri, tra cui artisti che hanno presentato il loro film in competizione. I film in concorso sono 22, sì, di cui diverse anteprime nazionali e tanti appunto film fuori concorso, retrospettive, focus on Polonia, a cura di un festival Hopla, che è un festival di Cracovia. Sì, poi ci sono appunto diversi incontri, come dicevo appunto le carte blanche proprio dedicate a Hugh Welkman, Dorota Cobbiela e Volker Schlecht, per scoprire tutto quello che è dietro le quinte, no? ai loro film, alle loro produzioni. Come sono strutturate le giornate? Da che ora si parte? Allora, prevalentemente si parte dal pomeriggio, quindi dall'intorno alle 18, e per esempio la prima serata inaugureremo il, appunto sempre il pomeriggio, intorno in realtà alle 19.30, con una cerimonia di apertura che prevede una performance live a cura del cantautore siciliano Fabrizio Cammarata, una performance live di musica, danza contemporanea e animazione. Poi il film d'apertura Loving Vincent e il concerto live per il dopo festival di Fabrizio Cammarata. E ogni giorno comunque sono visibili le mostre, alcune delle quali già inaugurate, altre che saranno inaugurate, tra cui una mostra che è Come se fosse ieri di Marco Cazzato, uno dei più talentuosi illustratori italiani, proprio nell'ambito del Museo Guttuso, e che dura sarà presente dal 7 al 22 di luglio. L'altra mostra di arte contemporanea è Lupercalia aujourd'hui, una mostra personale dell'artista Marco Cingolani, che sarà inaugurata il 19 luglio fino al 31 di agosto. E infine una videoinstallazione delle studentesse, quindi della ex studentesse della scuola di Urbino, Licia di Urbino, una mostra diciamo dedicata ai frame dei loro film d'animazione con un appunto videoinstallazione. Quindi diciamo un programma molto ricco, perché tra l'altro prevede anche delle attività per bambini. Ogni sera ci sarà una sezione, quindi, ed una area ludico-ricreativa denominata Notti al Museo per Bambini, e ogni giorno sono previsti letture e laboratori proprio contestualmente alle proiezioni, quindi ogni genitore potrà finalmente non lasciare i bambini a babysitter, nonni e zii, piuttosto invece poter far sì che potersi portare i loro piccoli e quindi magari lasciarli divertire con degli operatori culturali appunto di Animafix. Rosalba, in chiusura ci dai tutti i riferimenti web per la programmazione? Sì, allora, dunque, il nostro sito web è www.animafix.com, abbiamo anche una pagina Facebook, sempre Animafix con il PH, ed infine una pagina su Instagram, c'è un profilo Instagram, così, insomma, diciamo, i canali di comunicazione sono vari, YouTube, Vimeo. Perfetto. Quarta edizione di Animafix, International Animated Film Festival a Bagheria, Palermo, 18-22 luglio. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Rosalba Colla, un abbraccio e un in bocca al lupo. Grazie, grazie. Io ringrazio sempre i partner, perché appunto sono coloro i quali, insomma, grazie ai quali possiamo, insomma, portare avanti questa manifestazione da 4 anni, tra cui il Comune di Bagheria e appunto il Museo Guttuso, ma da quest'anno anche l'Istituto Goethe di Palermo e l'Istituto Polacco di Roma e insomma il patrocinio della Regione Siciliana, Sensi Contemporanei e Sicilia Film Commission. Rosalba, un abbraccio e a presto. Grazie mille, buona giornata. Siamo con Fabio Mancini per parlare della nuova stagione di Doc 3 dal 28 giugno al 4 ottobre, curata appunto da lui con la consulenza di Luca Franco. Fabio, ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti, grazie per averci chiamato per questo nostro appuntamento. Eccoci. Allora, quanti lavori e con che cadenza? Guarda, quest'anno ne abbiamo 14, saranno il giovedì in seconda serata, quindi una seconda serata che per questi primi appuntamenti è intorno alle 11.10, poi si sposterà un pochino perché la seconda serata di Rai 3 cambierà e avrà una composizione diversa, quindi saranno un po' più tardi. Comunque sono 14 titoli, come al solito italiani, internazionali, esordienti e così maestri affermati, abbiamo cercato di lavorare in maniera ampia. Anche sulle tematiche?

a Cerignola la prima tappa e il 26 luglio la seconda tappa a Mesagne. Poi Liberocina e Liberaterra si sposta in Calabria, il 27 luglio proietteremo a Polistano e il 28 luglio a Palmi. Dalla Calabria alla Sicilia, dal 1 al 5 agosto, le tappe sono 1 agosto Trappetto, 2 agosto Salemi, 3 agosto San Giuseppe Aiato, 4 agosto Catania, 5 agosto Ascicli. Dopo la pausa estiva, in autunno la carovana riprende il suo percorso con le tappe del 5 e 6 ottobre saremo a Ferrara al Festival Internazionale e a metà ottobre la carovana chiude il percorso con la tappa in Francia, a Parigi, insieme agli Atelier Varan, per sottolineare il fatto che le mafie non sono un problema che attecchisce solo nel nostro paese, ma sono un problema internazionale. Ogni tappa del festival è organizzata in stretta collaborazione con le realtà del territorio, le cooperative di Liberaterra, le associazioni, i presidi di Libera, le istituzioni, i cittadini responsabili. In accordo con le realtà locali vengono anche scelti film da proiettare con la consulenza di Fabrizio Grosoli. 11 sono i titoli in programma quest'anno, film d'impatto, interesse e riflessione per il pubblico. Tra i titoli abbiamo Oltremare di Bianconi, Prima che la notte di Vicari con il fiato sospeso della Quatriglio, Sono tornato di Minero, L'ordine delle cose di Andrea Segre, Nato a Casal di Principe di Bruno Oliviero, Vento di Soave di Punzi, L'intrusa di Lorenzo Di Costanzo, Untitled di Glavuger e Willy, Il giovane Marx di Peck, Gatta Cenerentola di Rack, Cappiello e Guarnieri. Agli spettatori di questo festival particolare, oltre ai film, vengono proposti anche due spettacoli dal vivo. Uno, tra virgolette, storico, Mafia Liquida, la performance tra cinema e fumetto e Lavagna Luminosa con l'artista Vito Baroncini, che caratterizza le proiezioni di Liberocinema in Liberaterra delle ultime tre edizioni. A fianco allo spettacolo Mafia Liquida, da quest'anno Liberocinema in Liberaterra propone anche la conferenza spettacolo Rifiutopoli, Veleni e Antidoti, in scena il giornalista Enrico Fontana e l'artista Vito Baroncini e la Lavagna Luminosa. Rifiutopoli debutterà ad Imperia, Assisi, Polistena e Catania, per chiudere anche in questo caso la sua tournée con Rifiutopoli al Festival Internazionale. Anche per l'estate 2018 Cinemovere Libera propongono due campi di estate liberi. Il primo, che si tiene in Sicilia dal 30 luglio al 5 agosto a San Giuseppe Aiato, nel bene confiscato il Giardino della Memoria. Il titolo del campo è Vivere un festival, valorizzare un bene. Il secondo campo invece si tiene a Genova dal 26 agosto al 2 settembre dal titolo Chuck si gira, dove sperimenteranno con una regista tutte le modalità dalla scrittura alla realizzazione per realizzare narrazioni e racconti utilizzando la macchina da presa. Libero Cinema in Liberaterra è promosso da Cinemovel Foundation e da Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Per essere informati, aggiornati sulle tappe, sui film e sulle iniziative che questo festival propone durante l'estate, i punti di riferimento sono il sito cinemovel.tv e tutti gli strumenti social Facebook, Instagram, Twitter e YouTube legati a Cinemovel. Questo è lo spazio Cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.